Venezia. Quantunque la città di Bologna sia una delle più antiche d'Italia, è una delle meglio conservate. Si riconosce l'impronta del tempo, ma non quello della degradazione. La sua vigorosa vecchiaia ha i volti e le forme del gotico. Bologna è nel Medioevo quello che Pompei è nell'antichità, un monumento ai costumi e alla domestica esistenza dei secoli. Lady Morgan. La finestrella